pazzo d'amore, pezzo d'amore. Volevo scrivere un pezzo d'amore, volevo scrivere un pezzo d'amore, un pezzo d'amore, pezzo d'amore. E allora ho scritto un pezzo d'amore. Quando la musica chiama io le rispondo. Se trovo una cubana che faccio il finto sordo. Il profumo dell'Havana e l'alma del Cuba. Passami un Guantanamera che l'accompagno con un rum e pera. Faccio un disastro, devasto mentre incastro. Porto nefasto nel sistema nato guasto. Rivoluzionario Fidel Castro, avvolgo il nastro. Premo play e accendo con un tasto. Urlo più della leggenda, James Brown. Parlo più di Michael quando si presenta alla Motown. Mi lanciano tulipani, do voce a suoni mondani. Grido parole che mordono, lettere super cani. Tra la folla spicco come un faro, imparo. Mentre seguo le cinque battute della clave. Claro, ad ogni passo la pista si infiamma. Fuego! Ci provo con l'ultima casta rimasta. Hasta luego. E quando Cuba chiama? L'alma di Cuba. E quando Cuba chiama? Oh, oh, l'alma di Cuba. E quando chiama Cuba? L'alma di Cuba. E quando Cuba chiama? Ho solo musica nel farto. Quando chiama Cuba parto. Tachicardia cambio reparto. Ricuccio notte sembro sarto. Ballando salsa cubana con ritmo caldo dell'Havana. E smole la samaiana. Io resto tra la gente, tra le donne, tra la folla. Muto al canestro da tre come Michael Jordan. Se la musica mi chiama si risponderò. È come un treno da carico la trasporterò. Calici alzati per la musica che porto. La mente scintille corto. Un video ballano donne, giriamo in corto. Quando parte testo grasso se cade facciamo il botto. Non ti sposti noi da Cuba scondi. Rimani sotto. Ti porto musica rivoluzionaria. Ti chiamo Che Guevara. Ascolta zona chiusa, lirica, musica. Al mastro impara la gara. Musica in the street, non passi cara. Se entra qui provarci, siamo in tanti. Manca l'aria. E quando Cuba chiama? L'alma di Cuba. E quando Cuba chiama? Oh, oh, l'alma di Cuba. E quando chiama Cuba? L'alma di Cuba. E quando Cuba chiama? Hey! Hey!